Espandere miscele miscugli, tra cantici di gloria adulare leoni feroci. E vi ho visto come pure i gabbiani sgozzare dei pesci, come falchi nascosti in collina seguire i miei passi. E vi ho visto come palloni gonfiati pregare alle stelle, fra maniaci assetati di spot rubare le più belle. Dalla polvere acquistate libertà, ma una triste per nuova storia sarà. Dalla polvere respirate libertà.